Succede, si fa, di ogni erba un fascio, per cui ci si può pure sbagliare. Per l'amor di Dio, niente che ti fa morire, però quando succede fa male. Ma adesso chi si muove più da questo porto sicuro? Ma adesso chi si arrende più, adesso che ci sei tu, da questa parte del muro? La vita è dura, la vita è dura, la vita è dura per tutti. La vita è dura, la vita è dura, è piena di farabutti. Ma adesso che sei qui, dormi sereno, adesso che sei qui. Sai come succede, si va, poi ci si torna, per cui diventa triste aspettare. Poi per distrazione si gira un momento la testa e non lo vedi passare. Ma adesso chi ci pensa più a qualche amore futuro? Adesso chi ci gioca più, adesso che ci sei tu, che sei un terno sicuro? La vita è dura, la vita è dura, la vita è dura per tutti. La vita è dura, la vita è dura, è piena di farabutti. Ma adesso che sei qui, dormi sereno, adesso che sei qui. La vita è dura per tutti, la vita è dura, la vita è dura, è piena di farabutti. Ma adesso che sei qui, dormi sereno, per merito mio, per merito mio, ce n'è uno in me. Per me.